Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Emanuele Scaringi, regista del film La profezia dell'armadillo, in uscita in sala giovedì 13 settembre. Emanuele, ben trovato. Ciao, ciao a tutti. Come lo descriveresti in breve? Il film è una commedia che ha questo tema invece molto, molto questo tema drammatico che tratta l'elaborazione del lutto. Sì, sì. È l'unione di queste due cose, il segreto, la forza che sta alla base del successo anche della film 9 di Michele Rec. Com'è nato tutto il progetto? Io sono stato coinvolto fino a aprile dell'anno scorso, dopo che il film è stato fermo per un po' di tempo, e sono stato coinvolto da Domenico Procacci, che appunto mi ha proposto di curarne la regia quando già c'era una sceneggiatura finita, scritta appunto da Michele stesso, insieme a Sperioti, Gianni Palomba e Valerio Massandrea. Poi è andato tutto molto velocemente, perché a inizio ottobre abbiamo iniziato le riprese. Senti, in base anche alla sceneggiatura, e come ti sei rapportato al lavoro? Il lavoro è stato complesso, nel senso che appunto viene da un fumetto di successo, è difficile adattare i fumetti. Questo tipo di fumetto non è un fumetto di supereroe, ma tratta appunto di supereroi, sono persone comuni. Di certo è un lavoro tra virgolette facile quando hai un buonissimo testo come era quello di partenza. Sono stati molto bravi gli sceneggiatori a rendere meno frammentario le storie brevi che costituivano la graphic novel e a farlo diventare un film con un respiro unico e lungo. Quali sono gli elementi della graphic novel che più avevi apprezzato? Sicuramente dove è ambientato. Conosco bene la zona perché ci sono cresciuto e mi piaceva molto questo racconto non stereotipatico e non retorico sulla periferia. Cioè, finalmente è una metropoli, finalmente non... può essere un posto ovunque del mondo dove le persone vivono. I personaggi li trovavo abbastanza vicini, potrebbero essere dei miei amici. E poi ammiro tantissimo l'ironia e l'autoironia con cui Piero Calcari riesce a raccontare i suoi personaggi e le sue storie. Con Michele sei entrato in contatto, in relazione? Sì, lui è stato convolto, ora appunto ha riscritto totalmente la sceneggiatura riportandola vicina alla commedia del fumetto. È stato coinvolto in tutte le fasi, dal cast alla scelta delle musiche, le scenografie ad esempio sono tutte originali suoi, poster in casa, le locandine per i concerti. Poi Michele comunque è una persona schiva che rispetta molto il lavoro degli altri, per cui non si sentiva di fare la regia perché sa che è un altro lavoro e si era cimentato in quella meravigliosa follia che è scrivere in diretta in due volumi di Macerie Prime, per cui per credo 8 mesi è stato barricato in casa. No, è stato presente in tutte le fasi dell'elaborazione del film. Secondo te, più in generale, in che relazione sono il fumetto e il cinema? Penso è molto strano perché già per i romanzi, uno quando ha detto il romanzo, certo, ha un'idea, la propria idea di come verrebbe fuori dalla storia sul grande schermo. Per il fumetto questa cosa è ancora più accentuata perché le tavole, le immagini sono visualizzate. Io ho cercato di non fare il verso, di non scopiazzare. Qualche volta abbiamo omaggiato qualche tavola, però è completamente un altro mezzo. Per me quello che conta è lavorare attorno a un tema e cercare di raccontare una storia, per cui nel fumetto abbiamo cercato di rispettare il mondo e i personaggi, di non tradire il sentimento appunto di Zero Mercare, però ci siamo concentrati soprattutto su che cosa racconta la profezia dell'armadillo, che è quella che comanda e che un po' gli fa da guida. Nelle prime proiezioni di presentazione, che tipo di reazioni ha suscitato? Molto buona, abbastanza, no, che mi ha stupito, però comunque un piccolo film indipendente, e anche quando ti arrivano delle critiche un po' ti viene da sorridere, perché già il fatto che lo associano ai grandi film Marvel con Spider-Man, che comunque il film c'è, ad esempio in proiezione ufficiale a Venezia ci sono stati quattro applausi a scena aperta durante la proiezione, fa. Mi aspettavo dei fischi, quando applaudono 1.400 persone fa effetto, non le contrarie, è stata una bella sensazione, è stato molto emozionante. E poi abbiamo avuto un paio di anteprime a pagamento a Mestre a Venezia, dove c'era il Tutto esaurito. La risposta del pubblico mi sembra molto, molto buona. Speriamo giovedì, c'è questa cosa abbastanza ingrata, per cui un film, soprattutto quando è così indie, se va bene il primo weekend tiene, se no viene smontato, senza tenere conto del lavoro che c'è dietro di anni. Sì. Che tipo di uscita sarà, Emanuele? Allora, è una buona uscita, viene distribuito dalla Fandango che l'ha prodotto, e ci saranno credo 100, più di 150 copie, dipende molto da come va. Poi abbiamo questa fortuna per cui credo il prossimo weekend sia il più caldo dell'estate, per cui la gente andrà al mare, riprende il campionato. No, vediamo, abbiamo cercato di fare il massimo, vediamo, speriamo bene. Allora, un saluto e un ringraziamento ad Emanuele Scaringi, regista del film La profezia dell'armadillo, in uscita in sala giovedì 13 settembre. Emanuele, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie. Siamo con Zazà del collettivo San Basilio Storie di Roma per parlare appunto del documentario omonimo che da oggi è online, proprio in ricordo della figura di Fabrizio Ceruso, ucciso l'8 settembre del 1974. Zazà, ben trovato. Ciao, buonasera. Raccontiamo brevemente a chi ci ascolta la vicenda storica. Sì, allora, il documentario nasce dalle commemorazioni in memoria di Fabrizio Ceruso, che è un ragazzo di 19 anni dell'autonomia operaia di Tivoli, che è stato ucciso dalla polizia durante lo sgombero delle case occupate in via Montecarotto l'8 settembre del 1974, al termine di un ciclo di lotta per la casa imponente nella città di Roma e non solo, che ha visto migliaia di appartamenti occupati e manifestazioni veramente imponenti. San Basilio era una delle ultime sacche di resistenza nella città, il governo Rumor aveva messo in campo l'esercito per debellare questo movimento e a San Basilio, nei primi giorni del settembre 74, si è svolta una vera e propria battaglia, come è passata poi alla storia appunto come la battaglia di San Basilio, durante la quale la polizia ha provato con la forza a sgomberare queste case, tutto il quartiere si è rivoltato contro questo sgombero, sono arrivati anche persone solidali, compagni e compagne da tutta Roma e anche da fuori, tra cui appunto Fabrizio da Tivoli, e l'8 settembre, durante la giornata più dura di scontri per resistere allo sgombero delle palazzine, Fabrizio è stato ucciso dal fuoco della polizia su via Fiuminata. Raccontiamo anche un po' come nasce l'idea del documentario, come l'avete sviluppato e poi dove lo state portando. Allora, l'idea del documentario nasce perché da 5 anni sulla Tiburtina sono nate tutta una serie di nuove realtà sociali, tra occupazioni abitative, spazi occupati e anche i vecchi compagni di San Basilio che si sono riattivati sul territorio, e abbiamo pensato che fosse in qualche modo utile riprendere questa memoria che fa sempre fatto parte un po' della pelle di San Basilio e dei suoi abitanti. Se quando abbiamo realizzato, cioè nel corso delle recensioni del documentario, abbiamo girato molto per il quartiere, abbiamo chiesto molto alle persone, se conoscessero Fabrizio Ceruto, se conoscessero la sua storia, tutti un po' sanno di cosa si sta parlando, tutti sanno che è una persona che comunque ha dato la vita per difendere il diritto alla casa, però c'era un po', diciamo, un alone di insabbiatura rispetto a questo tipo di memoria, dovuto ai tanti anni che sono passati e anche un po' all'opera di decostruzione di questo tipo di immaginario che c'è stata a partire dai mass media fino, insomma, alla classe governante, che in qualche modo ha cercato di rimuovere un po' questo episodio dalla memoria collettiva. Per cui abbiamo cercato di ritirarlo fuori, sia ovviamente facendo delle iniziative di memoria nel corso delle giornate proprio dell'anniversario, e sia appunto facendo questo documentario. Abbiamo pensato che il supporto audiovisivo, specialmente nell'epoca odierna, fosse il mezzo più idoneo per far arrivare questo tipo di messaggio al maggior numero di persone possibili, e perché no, anche per mettere un po' nero su bianco tutta una parte di storia che spesso anche nell'archivio della sinistra militante è sempre un po' confusa, o comunque non si ha mai bene un archivio ben organizzato su questo tipo di episodi. Per cui, diciamo, coniugando un po' queste due esigenze, ci siamo messi al lavoro, e il lavoro di proprio di memoria storica e di ricerca è durato anche molto, quasi 3 anni, proprio perché le fonti erano sempre molto sparse e difficile reperimento. E poi è stato ovviamente un lavoro in continuo crescendo, perché chiaramente continuando a fare interviste, ricerca sul campo e scoprendo nuovi elementi, se ne trovavano sempre di nuovi, per cui alla fine, insomma, è stato anche un lavoro che, oltre al lavoro in sé per sé, è stato utile proprio per prendere un bene contatto con il tessuto che andavamo a raccontare. E da lì, insomma, è nato poi questo documentario, che in realtà è pronto già da ormai un anno. Abbiamo fatto una serie di presentazioni in giro per Roma e in giro per l'Italia, e adesso abbiamo deciso, insomma, di pubblicarlo online, proprio affinché sia fruibile dalla maggior parte delle da tutti e tutte coloro che ne vogliano fruire, in qualche modo sia patrimonio collettivo di tutti coloro che si interessano a questo tipo di tematiche. Quindi realizzato utilizzando materiali d'archivio e interviste oggi a varie figure. Esattamente, sì, abbiamo combinato, diciamo, questi due aspetti: l'indagine storica svolta attraverso ovviamente il supporto di uno storico che ci ha aiutato passo passo nella ricostruzione degli eventi, che non è stata comunque facile. Consideriamo che quando abbiamo iniziato questo lavoro avevamo una percezione di questi eventi che era molto diversa da quella che abbiamo adesso. Abbiamo scoperto tutta una serie di cose che, nonostante già fossimo informati sull'argomento, prima non sapevamo. Quindi comunque abbiamo è stato un lavoro che ha combinato sia le indagini archivistiche, sia quella delle interviste sul campo di persone che c'erano allora, di persone che lo hanno studiato, le persone che oggi abitano San Basilio, soprattutto la loro percezione di quello che succede, e anche le persone che tuttora occupano, perché ovviamente non dimentichiamo che sono passati 44 anni da quell'episodio, ma tuttora c'è gente che a San Basilio non solo occupa casa perché è un diritto che gli viene negato. Tuttora a San Basilio ci sono delle occupazioni abitative, ci sono, oltre a uno stabile occupato, ci sono diversi appartamenti occupati sia in maniera organizzata che in maniera spontanea da parte degli abitanti del quartiere. Quindi è un modo anche, diciamo, per riattualizzare una memoria che in realtà è ancora viva, perché vive proprio nella lotta che tuttora gli abitanti di San Basilio e un po' di tutta la città di Roma continuano a fare per riprendersi il diritto negato della casa. Zazà, da oggi online su YouTube. Per informazioni e approfondimenti c'è il sito progettosanbasilio.org, giusto? Esattamente, sì, potete trovarci sia su progettosanbasilio.org oppure anche su Facebook, c'è la nostra pagina San Basilio Storie di Roma, o anche su YouTube c'è il canale Progetto San Basilio, su cui potete trovare tutti i contributi che abbiamo caricato nel corso di questi anni. Allora, ricordiamo il documentario San Basilio Storie di Roma del 2017, realizzato dal collettivo San Basilio Storie di Roma. Un abbraccio e un ringraziamento a Zazà, e a presto. Un abbraccio a voi, a presto. Con Francesco Bizzarri, direttore della quarta edizione del Festival del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà, Triennale di Milano dal 13 al 16 settembre. Francesco, ben trovato. Grazie, ben trovati a voi. Intanto descriviamo cos'è questo festival. Beh, è un festival Festival sul cinema documentario. Uso la parola cinema proprio per significare che la selezione dei titoli che noi portiamo al nostro festival sono lungometraggi di 70-80 minuti, quello che alcuni definiscono cinema del reale. Emozionanti, trattano di temi che ci riguardano e temi contemporanei che ci toccano tutti i giorni, ma lo fanno sempre emozionando, forse ancora di più di un classico film di fiction, quindi festival di cinema del reale, di cinema documentario. Quarta edizione, come è nato tutto? Ma è nato come tutte le cose che raramente nascono dietro grandi pianificazioni, è nato dalla passione. Io ho tanti anni che ho lavorato nel settore della televisione e mi sono sempre appassionato a questo genere. Negli ultimissimi anni è un genere che è uscito fuori con grande forza e con grande successo nei festival internazionali più importanti, grazie a Gianfranco Rosi che ha vinto Venezia, che ha vinto Berlino, Leonardo Di Costanzo, insomma anche grandi registi documentaristi, e quindi ho deciso diamogli uno spazio, diamogli un palcoscenico. Io vivo a Milano è una città importante, è una città diciamo aperta alle influenze, diciamo con possibilità economiche, con curiosità culturali eccetera. Ne abbiamo deciso di fare partire, è stata una scommessa, e abbiamo fatto partire questo festival 4 anni fa. Quante sono le opere presentate in questa edizione? In questa edizione presenteremo circa 30 opere e poi nella sezione Visione Incontra, che invece è la sezione dedicata al business, perché abbiamo anche una 2 giorni di mercato per far incontrare produttori e registi indipendenti a possibili finanziatori, a decision maker, a commissioning editors. Ecco, in quei 2 giorni presenteremo oltre ai 30 titoli 16 progetti, quindi un pitch di 16 progetti, una presentazione di progetti non ancora terminati che cercano finanziamento per essere completati o possibilità di distribuzione. Ecco, questa è un'altra cosa che voglio sottolineare, perché oltre che cercare di far conoscere al grande pubblico le 30 opere sono a entrata gratuita, abbiamo anche 1-2 giorni per accreditati dedicati all'industria, proprio per promuovere e spingere questo genere e far sì che tanti progetti indipendenti vedano finalmente la luce. Rispetto ai 30 titoli, quali sono stati i criteri di scelta? I criteri di scelta sono un po' orientati ai temi che richiama il titolo del nostro festival, visioni dal mondo contemporaneo, immagini dalla realtà, e quindi tutto quello che succede nel mondo e che ci cambia e che insomma che ci sta cambiando la vita, quello che ci succederà cercando anche di vedere un po' quello che potrà succederci nel futuro. Cioè c'è una crisi di identità nella società di oggi, perché i grandi mutamenti dovuti alle migrazioni, dovuti alla tecnologia e alla possibilità dei social di mettere immediatamente in contatto tutti con tutto, fanno sì che il concetto di vecchia identità, quindi di famiglia, di luogo, di regione, di religione, di cultura, eccetera, sta cambiando velocemente, la gente ha paura e quindi reagisce in modo appropriato o non in modo appropriato, e il nostro festival cerca con i temi che porta avanti sulla migrazione, sulla guerra, sulla giustizia, sui diritti, sulle risorse, eccetera, di dare quell'informazione in più per cercare di togliere queste paure di perdere l'identità. Questo è un po' il concetto di fondo di Atrafè, cioè cerchiamo di emozionare, di informare e di informare in un modo che normalmente attraverso i media normali non succede. 30 opere per 4 giornate, come saranno organizzate singolarmente? Allora, le location sono la Triennale di Milano, che è il Tempio della Cultura di Milano, per tutti e 4 giorni, quindi da giovedì a domenica 16, Poi abbiamo la Fondazione e alla Triennale presenteremo tutte le opere di produttori e registi italiani, quindi che partecipano al concorso, dove ci sono premi, eccetera. Sempre alla Triennale ci saranno anche delle produzioni, diciamo che sono coproduzioni con Rai Cinema, Istituto di Produttori Indipendenti insieme a Rai Cinema, insieme a Istituto Luce Cinecittà, insieme a Rai Cultura, Rai Storia, tutte anteprime, tutte le cose che si danno saranno in anteprima, anteprima italiana o anteprima mondiale, quindi mai viste. E invece alla Fondazione Feltrinelli ci sarà il Panorama Internazionale, che sono 10 titoli internazionali dei più famosi, tutti recentissimi, tutti in anteprima italiana, sono i grandi film documentari, il grande cinema documentario che ha vinto nei grandi festival internazionali, che per la prima volta facciamo vedere in Italia. Questo anche per dare un'idea al pubblico di che livelli può raggiungere il cinema documentario quando ha dei budget interessanti o quando sono coproduzioni importanti. E poi avremo anche al Museo della Scienza e della Tecnologia un paio di titoli sulle risorse sviluppo sostenibili e sull'education. Bene, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Assolutamente, il sito è www.visionidalmondo.it, quindi molto semplice, poi siamo ovviamente anche sui social, insomma come tutti, su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Perfetto. Quarta edizione del Festival del Documentario Visioni dal Mondo, immagini dalla realtà. Triennale di Milano dal 13 al 16 settembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Francesco Bizzarri. Francesco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio, grazie e crepi il lupo. Con Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali per parlare del documentario Crime Plus Punishment di Steve Meng, che sarà presentato in anteprima nazionale al Festival Visioni dal Mondo a Milano, alla Triennale di Milano, il prossimo 16 settembre. Dario, ben trovato. Buongiorno, ciao, ben trovato. Mi incuriosiva molto, per cui presentacelo. È un film nuovissimo, appena uscito, un grande formato, 112 minuti, risultato di un'opera, di un lavoro che è durato la bellezza di 4 anni. Il regista Stephen Meng ha seguito un gruppo di poliziotti del Dipartimento di Polizia di New York, esattamente 12 agenti, chiamati poi diciamo da tutti i 12, che intentano una class action contro il Dipartimento di Polizia per denunciare la pratica delle cosiddette quote minime di arresto. Cosa sono le quote minime di arresto? La Polizia di New York utilizza, cioè chi impone ai suoi dipendenti di fare un certo numero di arresti al mese. Questo perché mantenendo un certo, chiamiamolo, rating di efficienza, ottiene in questo modo un incremento del budget. Quindi praticamente più arresti si fanno, più soldi arrivano al dipartimento e quindi sono tutti felici. Peccato che vittime di questi arresti, tra virgolette, obbligati, siano ovviamente le minoranze etniche della città, ovvero gli afroamericani, i latinos, i giovani, insomma, che più frequentemente si trovano in mezzo alla strada, che quindi sono vittime di questi arresti indiscriminati delle pattuglie di polizia. Quindi una pratica ovviamente allucinante da sotto tutti i profili, sotto il profilo legale, ma soprattutto una pratica discriminatoria, perché poi appunto investe le minoranze etniche. I 12 poliziotti protagonisti di questo film sono tutti afroamericani o latini, quindi loro hanno un coinvolgimento particolare, perché dicono: noi non vogliamo più andare ad arrestare così indiscriminatamente i nostri ragazzi, la gente in mezzo alla strada, e quindi si oppongono a questa cosa. Questa opposizione ovviamente provoca delle ripercussioni enormi su di loro, quasi tutti vengono demansionati, vengono messi a fare i piantoni in mezzo alla strada, comunque vengono perseguitati dai loro stessi colleghi molto spesso, ma dai vertici della polizia, vengono fatti è un film di indagine, un film di inchiesta straordinario, girato veramente in modo molto cinematografico, sembra veramente un legal thriller. Speriamo, adesso il film lo presentiamo appunto domenica alle 18:30 alla Triennale di Milano nell'ambito del Festival Visione del Mondo, e speriamo molto presto di poterlo, diciamo, far vedere a tutto il pubblico su qualche canale televisivo. Insomma, questo è sempre il nostro obiettivo finale. Finora che percorso ha avuto? Il film è molto recente, ha vinto un premio speciale della giuria al Sundance Film Festival e ha vinto il gran premio della giuria all'Independent Film Festival di Boston. Poi ha partecipato ad altri festival, per lo più negli Stati Uniti. Quindi sì, diciamo, è un film che è all'inizio della sua vita diciamo distributiva. Noi lo portiamo in Italia e facciamo, diciamo, la nostra parte. Non vi so dire al momento dove, in che altri paesi sarà visto. Sì, sì. Su questo, diciamo, è un po' presto. Sul web dove si può cercare per avere maggiori dettagli? Sul web c'è un sito, Crime and Punishment, Crime Plus, cioè più Punishment. Se uno lo digita, c'è una pagina dedicata, c'è una pagina, è la pagina del film. Allora, ricordiamo l'appuntamento, Crime Plus Punishment di Steve Meng al Festival Visioni dal Mondo alla Triennale di Milano domenica 16 settembre. Un saluto e un ringraziamento a Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali che se ne sta occupando. Dario, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie a voi di tutto. A prestissimo, speriamo. Con Enrico Nosei per parlare della 12ª edizione del Festival della Biodiversità nel Parco Nord Milano dal 13 al 23 settembre. Enrico, ben trovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Facciamo prima una panoramica generale e poi ci concentriamo sulla parte cinema, che è quella predominante. Ma sì, insomma, una rapida inquadramento di che cos'è questo festival, che è arrivato alla 12ª edizione, che è organizzato soprattutto dal Parco Nord Milano, ed è una manifestazione che affronta i temi della natura e della sostenibilità, che appunto dal 2007 si tiene a Milano per sottolineare, per proporre e per riflettere sulla biodiversità come valore culturale, quindi in grado di mettere in evidenza i valori legati a certi luoghi, a certi paesaggi, a certe tradizioni, a un certo sapere che, insomma, magari rischia di essere dimenticato o di non essere tramandato alle giovani generazioni alle quali il festival si rivolge. Soprattutto è un festival per tutti, naturalmente, però ragazzi e famiglie sono il pubblico privilegiato. Tutto questo attraverso appuntamenti di carattere musicale, di carattere teatrale e anche di carattere cinematografico, ragione per cui da qualche anno anche la Cineteca di Milano è un partner del Festival della Biodiversità e di Parco Nord, proponendo così un programma di film. In altri anni sono stati documentari più direttamente a tema, in quanto documentari su quelli che sono appunto i temi del festival. Quest'anno invece è un programma un po' diverso, secondo me più ambizioso, anche per non rimanere poi troppo fermi su anche un tipo di cinema che è sempre un cinema di carattere documentaristico, che magari dal punto di vista filmico è meno interessante di altre proposte. Allora, dici un po' di quanti saranno i titoli e come è stata la scelta. Ma abbiamo deciso di ritornare, in realtà sono solo due i registi rappresentati da questa peraltro breve rassegna, e sono Ermanno Olmi, che la fa un po' da padrone, e Bellatar, di cui sarà proiettato un solo film, sebbene ne valga almeno tre data la lunghezza. Dunque, Olmi perché Ermano Olmi, perché è scomparso quest'anno, perché ci piace sempre ritornare su di lui per ricordarlo, in quanto è stato sicuramente uno dei registi più importanti della storia del cinema italiano, forse anche non solo italiano. E Olmi si è spesso occupato anche nei suoi film di queste tematiche, o in modo diretto come in un documentario come Terra Madre, un documentario realizzato insieme a Slow Food e che affrontava appunto tutte le tematiche legate alle coltivazioni, alla salvaguardia della terra, ai pericoli dell'OGM, eccetera, oppure anche nei suoi grandi film di finzione su tutti, L'albero degli zoccoli, è stato un regista che ha sempre guardato anche appunto a quella che è il valore della tradizione culturale del nostro paese. Se qualcuno l'ha visto, L'albero degli zoccoli, insomma, Contadini bergamaschi, un film molto lungo, un film difficile, un film parlato tra l'altro in una lingua che è il bergamasco, che è una vera e propria lingua, infatti noi faremo la versione con i sottotitoli italiani. Un altro documentario molto bello è Il fiume, dedicato al Po, anche su quello mi è ritornato più volte per andare a cercare, a mostrare, a far conoscere tutto ciò che si sviluppa, diciamo, come cultura della terra e della salvaguardia della terra intorno al grande fiume, sul quale ritorna anche in un film di finzione come Cento chiodi, che in tutta la seconda parte, anche questo, è girato in location che sono le rive del fiume Po. E quindi sono questi quattro titoli dedicati a Olmi, con regia di Ermano Olmi, mentre con scelta, diciamo pure coraggiosa, azzardata, coraggiosa anche da parte del Parco Nord, sarà poi in programma, in un'unica sessione di proiezione, Satan Tango di Belatar. Belatar è un regista ungherese molto molto importante, che non ha fatto molti film, purtroppo alcuni non sono mai stati distribuiti in Italia, fra cui Satan Tango, che è un film di 7 ore e 15 minuti. Posso garantire per esperienza diretta che la visione di questo film è davvero qualcosa di molto diverso da quello a cui siamo abituati, e proprio questa lunghezza è quello che lo rende un capolavoro assoluto, perché diventa un'immersione in una storia che naturalmente ha dei tempi dilatatissimi e che permette di fare più che una visione un'autentica esperienza, un'esperienza temporale. Io ricordo che quando lo vidi uscii dal cinema con un certo stordimento, era difficile ritornare così, diciamo, alla vita normale e ai tempi della vita normale dopo aver visto un'opera del genere. È un film tutto ambientato nella tundra ungherese, dove anche lì i protagonisti sono girati in un piccolo villaggio, i protagonisti sono gli animali, i contadini, le persone che vivono in questo villaggio. Difficilissimo raccontarne la storia, ma ripeto, è davvero un'esperienza cinematografica. Credo che sia un film che, per chi ama davvero il cinema, è impossibile, è sconveniente non avere visto, insomma. Sì. È proiettato con partenza alle 11 di sera e arrivo quindi alle 6:30 del mattino, sono davvero 7 ore e 15, non è un modo di dire, e vediamo, insomma, non credo che ci saranno grandi folle, ma quei pochi vivranno un'esperienza straordinaria. Devo aggiungere che, come altro valore in più di queste proiezioni, che queste proiezioni verranno effettuate con il Cinemobile. Il Cinemobile è un camioncino, un furgone Fiat che è del 1936, che normalmente è parcheggiato qua nell'atrio del Museo del Cinema della Cineteca di Milano, e che ogni tanto spostiamo per fare delle proiezioni all'aperto. Il Cinemobile era quello strumento che serviva in quegli anni, dalla seconda metà degli anni 30 in avanti, non so poi per quanti anni è andata avanti, per portare il cinema nelle piazze, in quei paesi sperduti o dei paesi lontani dalle grandi città in cui il cinema non c'era, no? Era, come dire, una proto arena estiva per appunto portare il cinema laddove il cinema non aveva attrezzature per essere proiettato. Quindi c'è questa ulteriore curiosità, se volete, di approfittare di uno strumento così lontano, ma talmente lontano che è vero che gli estranei si toccano, rischia di essere particolarmente attuale, insomma. È una macchina che si monta il suo schermo, ha sul tetto i suoi proiettori e quindi è perfettamente autonoma, basta avere una presa di corrente naturalmente vicina, è perfettamente autonoma per poter fare proiezioni cinematografiche. Ricordiamo allora la 12ª edizione del Festival della Biodiversità, Parco Nord Milano, dal 13 fino al 23 settembre. Un saluto e un ringraziamento ad Enrico Nosei. Enrico, un abbraccio e a presto. A presto, a prestissimo. Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema per parlare del film A Voce Alta, La Forza della Parola di Stéphane de Freitas, in sala da lunedì 17 settembre. Anastasia, ben trovata. Ciao a tutti. Descrivicelo. Faccio prima una premessa, se mi permetti, come no, mi concedi, perché è divertente, cioè il pensiero di, che se racconto la storia così potrebbe lasciare un po' perplessi i nostri ascoltatori. La storia di per sé, infatti, è un concorso di retorica nella periferia francese, nell'università di Saint-Denis. Perché abbiamo deciso di distribuire un film comunque apparentemente così lontano da noi, lontano dal nostro paese, l'Italia, un concorso di retorica a Saint-Denis? Guarda, questo film mi ha fatto letteralmente innamorare, perché mi piace pensare al momento in cui l'ho visto, in una situazione molto strana, piena di rumori, di disturbi, e sono riuscita, ho iniziato a guardarlo con l'idea: chissà mai questo film, un concorso di retorica a Saint-Denis, come può essere interessante per il pubblico italiano? Invece mi ha proprio travolto e non sono riuscita a smettere di guardarlo dall'inizio alla fine. Questo succedeva ormai l'anno scorso, perché il film è stato presentato successivamente in concorso al Festival di Torino. Come anticipavo, quindi ci troviamo all'interno di un'università con dei ragazzi brillantissimi che hanno deciso tutti, peraltro tutti provenienti da ambienti e socioculturali molto diversi uno dall'altro, religioni diverse, tutti molto diversi uno dall'altro, hanno deciso di partecipare a questo concorso di oratoria, e tutti convinti che la parola sia importante per aprire e cambiare destini, il proprio destino, il destino un po' di tutti. Quindi insieme a loro viviamo questo viaggio e assistiamo alla preparazione di questi ragazzi, fatta da professori universitari, ma anche presso professionisti d'oratorio, tipo avvocati, poeti, che li preparano a tutti i livelli. Per dirti, ci sono dei corsi di respirazione per lasciare uscire la parola in modo libero, poi ci sono dei corsi di slam poetry, quindi come usare delle parole forti per in qualche modo attirare l'attenzione del tuo interlocutore, come scrivere la tua storia, raccontare la tua storia in modo che sia in qualche modo vincente, che il tuo interlocutore ti stia ad ascoltare, e anche come soprattutto argomentare i tuoi punti di vista, le tue idee. Quindi ci sono delle interessantissime sfide, diciamo, tra uno e l'altro, tra questi ragazzi, che devono difendere delle posizioni a cui magari nemmeno credono, ma devono essere in grado comunque di sfidare, tra virgolette, con delle argomentazioni, convincenti, visto seduto loro di fronte. In epoca di social media c'è comunque ancora il primato della parola insieme all'immagine. Sì, è vero, ma la parola scritta è un'altra cosa. Qui proprio parliamo proprio della parola parlata. Sì, Tra sì. l'altro, una cosa che io non amo, peraltro, parlare in pubblico, mi è venuta una voglia matta di partecipare a questi corsi di eloquenza, perché è proprio diverso. È il modo proprio di anche di argomentare le tue di raccontare le tue idee in modo da essere appassionante, coinvolgente. È la parola detta che qui è al centro del film, quindi è diverso, insomma, dai suoi... l'arte della retorica, insomma. L'arte della retorica, esatto, che non è un tema così, insomma, così apparentemente, no, di poco interesse. Da noi non è che ne parliamo tanto, all'università non è che ci siano corsi di cui si ragiona quotidianamente, ma invece devo dire che secondo me sarebbe veramente importante, che questo film è uno dei motivi per cui alla fine abbiamo deciso di distribuirlo, è proprio, dovrebbero veramente essere più diffusi, il film dovrebbe essere visto nelle scuole, anche perché questi ragazzi attraverso questa esperienza uniscono, superano tutte le barriere, sono vicini, sono amici, nonostante si sfidino. Si crea proprio una bellissima atmosfera tra di loro, si crea veramente un gruppo che supera tutte le diversità, è proprio anche interessante come diciamo, esperimento di integrazione, secondo me, considerato che davvero loro provengono da background completamente diversi uno dall'altro. Finora è uscito solo in Francia? Sì, che io sono uscito solo in Francia finora, sì, però l'hanno comprato in altri paesi. E cioè, verrà distribuito anche in altri paesi. In Francia è andato molto bene. Stefan, tra l'altro, ha scritto anche un libro che uscirà proprio a settembre su questo argomento in Francia, e noi vogliamo tanto che lui venga, anche perché io anche l'ho conosciuto personalmente ed è proprio una persona grandissima, e sarebbe davvero bello che portasse anche il progetto Eloquenza, che in qualche modo lo importassimo assieme al film, perché è davvero una cosa interessante. E il film veramente è costruito con un tiro narrativo, grazie anche all'espediente sicuramente del concorso, perché certo. Alla fine sai, tu segui chi vincerà, non sai mai chi vincerà, perché sono tutti bravissimi, non sai neanche per chi tenere, tra virgolette, da che parte stare, perché ti innamori di tutti questi personaggi, questi ragazzi sono pazzeschi, e quindi con questa attraverso questo espediente non molli mai, non ti annoi manco per un momento, quindi è proprio, c'è anche un montaggio, una struttura narrativa molto molto molto forte, molto forte. Infatti ha vinto il premio del pubblico a Torino, tutte le sezioni, non è che c'è il pubblico per il documentario, una sezione documentale, no, proprio un premio trasversale. Stavo pensando anche all'andamento del concorso nel documentario, e alla fine quelli che risultano più coinvolgenti di momenti oratori sono quelli più emozionali, dove chi parla mette dentro appunto le emozioni. Sì, è vero, è vero, è vero. Poi, ovviamente attraverso il film tu entri in contatto con tutti questi ragazzi, questi personaggi, e senti, fa scoprire anche le loro storie. Ovviamente non entra nelle case di tutti, ma entra nelle case di, diciamo, di quelli che alla fine sono selezionati il gruppetto finale, e scopri che hanno delle storie anche loro incredibili, e che nel loro modo di raccontarsi buttano dentro la propria esperienza personale, molta emotività. Sicuramente la cosa importante è questo, che non è un esercizio di retorica e basta, nel senso non è che questi raccontino delle cose lontane da sé o costruiscano castelli di parole, sono proprio se stessi e usano semplicemente la parola per raccontarsi al meglio, ecco. A voce alta, La forza della parola di Stefan De Freitas, in uscita in sala lunedì 17 settembre. Un saluto e un ringraziamento ad Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema, che lo distribuisce. Anastasia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie mille, grazie. Ciao. Ciao. Siamo con Fabio Mancini per parlare della nuova stagione di Doc 3 dal 28 giugno al 4 ottobre, curata appunto da lui con la consulenza di Luca Franco. Fabio, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti, grazie per averci chiamato per questo nostro appuntamento. Eccoci. Allora, quanti lavori e con che cadenza? Guarda, quest'anno ne abbiamo 14, saranno il giovedì in seconda serata, quindi una seconda serata che per questi primi appuntamenti intorno alle 11:10 poi si sposterà un pochino perché la seconda serata di Rai 3 cambierà e avrà una composizione diversa, quindi saranno un po' più tardi. Comunque sono 14 titoli, come al solito italiani, internazionali, esordienti e così, maestri affermati, abbiamo cercato di lavorare in maniera ampia. Anche sulle tematiche? Guarda, sì, le tematiche ci siamo mossi, spero, in maniera interessante, anche dal punto di vista, come posso dire, dal punto di vista dell'idea del documentario. Alcuni sono documentari proprio puri, quelli che conosciamo, ti posso dire alcuni titoli, abbiamo What Walla Walk, che ovviamente ha avuto moltissimi premi, la storia di questa giovane ragazza cristinese che vuole fare la poliziotta, oppure abbiamo altri titoli come Sufra, prodotto da Susan Sarandon, che ha corso anche per l'Oscar, una donna che in un campo profughi libanese vuole assolutamente aprire un'attività di catering. E poi invece abbiamo dei lavori diversi, per esempio abbiamo un bellissimo documentario che si chiama Athens Blues di Massimo Bongiorno, che è un po' un viaggio in una Grecia, come abbiamo scordato di vederla, no? L'attualità economica, politica e sociale ci ha un po' distratto, invece Massimo ci va proprio dentro, va a cercare una Grecia così umana in questa crisi da ridare tantissima speranza. È un documentario a cui teniamo moltissimo. E lo stesso, due punti aperta parentesi, che è il nuovo capitolo della ricerca di Davide Tosco, che è veramente una rimessa in scena, ha voluto parlare di bullismo, ma senza preconcetti, da tutte le parti, studiando per oltre un anno, raccogliendo tantissimi dati e poi creando una messa in scena che è più documentaria di un documentario in presa diretta. Fabio, a questo punto ci dai una pennellata anche degli altri? Assolutamente, giovedì questo, quindi stiamo parlando del 28, abbiamo Terapi, che è un po' un esperimento, anche lì abbiamo scelto un esordiente, ci piaceva la sua storia, si chiama Terapi ed è il racconto proprio di una terapia, è un piccolo set terapeutico, un ragazzo con un lavoro, con degli affetti, che improvvisamente trova la sua vita così smarrita e cerca una strada per ritrovarsi. Un racconto molto, molto sincero, molto, molto crudo, che ci è piaciuto molto. Proseguiamo con Nato in Siria, ha vinto il Premed di Marsiglia, con cui Doc Tre lavora da tanti anni, ed è un viaggio attraverso l'Europa durante il grande esodo dei migranti tra il 2015 e il 2016, quindi dalle spiagge greche fino alle foreste ungheresi, fino ad arrivare a Berlino, visto attraverso quattro bambini. Poi avremo Nata Filmena, che è un racconto napoletano sulle transizioni, la diversità. Avremo un femminiello tradizionale, la storia di Alessia, la prima trans sposa e imprenditrice napoletana, quindi è un viaggio molto particolare, molto affascinante. Over the Limit, che ha vinto tantissimi premi ed è la storia di una ginnasta russa, ma è il famoso metodo russo, quindi di allenamento, di una tensione continua tra ginnasta e allenatore, esasperando conflitti e tensioni. Sufra, di cui vi ho già parlato, quindi un campo profughi in Libano, la voglia di creare un catering e quindi uscire dal campo. Outside di Marco Speroni, e siamo arrivati all'inizio di agosto, sono quattro storie da tutto il mondo, no? Di persone che sono state condannate alla pena di morte e in qualche modo sono sopravvissute. Sopravvissute è un così è un eufemismo, perché la liberazione poi mi spinge a cercare di riequilibrare una vita che è stata in bilico per tantissimi anni. Abbiamo Wattwala Watts, ve l'ho già parlato, la ragazza palestinese che vuole essere poliziotta, primo movimento sull'orchestra italiana, quindi sono giovanissimi orchestrali, Fuori campo di Gaglianone, prodotto con Zalab, che è un viaggio ai confini dell'Italia attraverso le storie di chi aiuta le migrazioni senza essere organizzato, politicizzato, e gente che ha rinviato la vita in un momento, insomma. Artes Blues, siamo arrivati all'inizio di settembre. Quel che resta di me, che è un bellissimo documentario, Marta Cosentino è riuscita a parlare, a far parlare le giovanissime donne rapite da Boko Haram. Sono tornate nei campi, ma quell'esperienza non riesce a essere cancellata. Le stesse famiglie sono in difficoltà con queste donne che sono state rapite per essere schiave del sesso o, nella peggiore delle ipotesi, kamikaze. E chiudiamo poi con Pagine nascoste di Sabrina Varani, che è un film molto interessante, parte da una scrittura di un libro, si va nell'avventura italiana coloniale, si va dentro le storie di famiglia, e tutto è un svelarsi di un passato un po' rimosso. E chiudiamo poi con Davide Tosco e il suo racconto del bullismo in Italia. Fabio, un po' velocissimo, spero. Sì. Due curiosità in conclusione. La prima è se possono essere recuperati online per chi perdesse la diretta. Assolutamente tutto quanto dalla fine della messa in onda, dopo poco, su Rai Play, per chi vuole vederli da orari diversi, più comodi, più fruibili, quindi potete trovarlo tutto, potete cercarci sulle pagine Facebook, sul sito ufficiale, per avere tutte le informazioni di messa in onda, approfondimenti, curiosità, ci piace insomma costruire anche tanta informazione rispetto ai titoli. E l'altra curiosità è rispetto al pubblico dei documentari su Rai 3, rispetto per esempio ai dati dell'ultima stagione. Guarda, noi siamo molto contenti di come è andato quest'anno su Rai 3. Il documentario è stato molto presente, con degli esperimenti in prima serata, con titoli di Anical che comunque hanno portato avanti, per un pubblico generalista, l'idea del racconto documentario. Infatti abbiamo voluto muoverci così, proprio speriamo di aver fatto nella migliore dei modi, dei titoli che sono, come posso dire, hanno una fruibilità più classica, e spero che generino affezione, possano portare a vedere titoli che chiedono un po' più di attenzione, ma la soddisfazione penso sarà la stessa. Benissimo. Invito tutti a stare con noi. Ricordiamo allora la stagione Doc 3 dal 28 giugno al 4 ottobre, a cura di Fabio Mancini con la consulenza di Luca Franco. Fabio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. A voi, a prestissimo, veramente grazie mille, un saluto a tutti i vostri ascoltatori e grazie Federico. Con noi Ginella Vocca, direttrice dell'Estate in Biblioteca, il cinema legge il mondo dal 19 luglio al 27 settembre a Roma. Ginella, ben trovata. Ben trovati. Raccontaci tutto. Guarda, è una nuova avventura estiva, è la prima volta che ci muoviamo in quest'ambito, ma sicuramente con il nostro carattere e la nostra identità. E infatti abbiamo scelto di lavorare con le biblioteche di Roma perché riteniamo possano essere ancor di più uno straordinario strumento di relazione col territorio, di relazione colta con il territorio, come dire, gli avamposti culturali anche in zone molto periferiche della città e difficilmente raggiunte dai circuiti della cultura, dai circuiti di qualità della cultura. Il problema della distribuzione, diciamo, che non riguarda del cinema, che non riguarda solo le biblioteche, però nello specifico stiamo provando a fare un lavoro di, di, formazione e di diffusione del cinema di qualità italiano e internazionale. Quante saranno le opere proposte? Sì, sono in tutto 20, tra lungometraggi e cortometraggi, e insieme ai film, i film saranno preceduti da un'idea di incontro e dialogo sul cinema, di apericinema. E quindi si approfondiranno i temi del giorno, del film del giorno, ma anche proprio il senso dell'osservazione della realtà attraverso il cinema. Ci accompagneranno in questo impegnativo percorso Mario Sesti, Giona Nazzaro e Federico Pontigia, insieme alla nostra Veronica Flora e al nostro Alessandro Zoppo, colonne delle iniziative realizzate da Metexis, in particolare Met Film Festival. Ginella, sono 2 mesi e mezzo, 2 domande. Ci sarà una pausa estiva e per l'organizzazione quali giorni? Guarda, sono il programma, abbiamo cercato... Ah, una cosa importantissima che non dobbiamo dimenticare, che anche quella fa parte della nostra identità, saremo negli istituti di pena. In genere in estate le attività degli istituti in qualche maniera si fermano perché per ragioni strutturali di personale e di ferie. Quindi saremo negli istituti di pena di Rebibbia Femminile, Rebibbia Terza Casa e Casal del Marmo. Okay. In particolare Rebibbia Terza Casa saranno con noi anche i Manetti Bros con il loro film Amore e Malavita e incontreranno i detenuti. E quindi anche lì ci sarà una sorta di apericinema recluso. E il programma per le biblioteche prevede la proiezione di Sami Blood e di Il più grande sogno. Anche in questo caso avremo il cast e il regista che accompagneranno il film in parte. E dunque praticamente dal 19, fra pochissimo, apriamo alla Biblioteca Goffredo Mameli con L'intrusa, un film più adatto al dibattito del momento non poteva esserci, un film dedicato al tema proprio dell'incontro con l'altro, dell'accoglienza, quindi questo è il film di inizio e la pericinema sarà a cura di Mario Sesti. Il primo incontro. Dopodiché il 25 luglio ancora alla Mameli, il 26 luglio invece saremo a Valle Aurelia con Summer, un film bellissimo spagnolo, e a introdurre la pericinema sarà curato da Federico Pontigia. Il 30 luglio appunto a Rebibbia Femminile, il 27 agosto a Casal del Marmo e giovedì 6 settembre invece torniamo a Valle Aurelia con una serie di cortometraggi e la pericinema sarà a cura di Alessandro Zoppo, sono il meglio del MED delle ultime 2 edizioni. Giovedì 13 ancora di nuovo torniamo alla Mameli con La Bella e le Bestie di Kauter Benani, il film che ha aperto l'ultima edizione del MED Film. E dunque attenzione, torno indietro. Mercoledì 25 luglio a Ciambra, alla Goffredo Mameli. Ok, benissimo. A questo punto ci dai tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione? Sì, la programmazione è sul nostro sito medfilmfestival.org, cioè il programma scaricabile con le sinossi e tutte le informazioni possibili e immaginabili, così come sul sito dell'Estate Romana. Ok. L'estate in biblioteca, il cinema legge il mondo, 19 luglio fino al 27 settembre. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Ginella Vocca. Ginella, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille. Ciao. A presto. Siamo con Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville per parlare dell'arena estiva dell'Alphaville dal 28 giugno al 16 settembre. Patrizia, ben trovata. Ben trovati anche voi, sono contenta di sentirvi in questo primo giorno, secondo giorno d'estate, quindi insomma sono felice di tramite, diciamo, il nostro programma estivo. Come al solito, l'estate al Pigneto ha il nome di Alphaville, soprattutto quella che, insomma, all'origine si chiamava Mini Arena. Quindi noi abbiamo lanciato intanto il programma fino al 31 luglio, Federico, poi nel corso del tempo ovviamente daremo anche il programma di agosto e poi gli ultimi 15 giorni di settembre, che saranno molto importanti. Che cosa faremo dal 28 giugno al 31 luglio? Faremo delle cose molto particolari e molto diverse. E inizieremo con i Monty Python, che è appunto la regia più dissacratoria e più sconvolgente, più fuori di testa e soprattutto più attuale anche, che esista questo appunto gruppo di artisti inglesi che negli anni 70 e insomma anche dopo, per la verità, hanno realizzato film che in qualche modo ci hanno fatto molto ridere. Quindi noi insieme il 28 giugno, tanto per, come dire, dare una sferzata di familiarità con i nostri Monty Python, l'anno scorso avevamo fatto vedere Brian di Nazareth e quest'anno completiamo il nostro divertimento, la nostra vena di segretaria facendo vedere tutti gli altri. Poi ci saranno altre quattro rassegne, tutte molto molto particolari, anche molto diverse. Ce n'è una che riguarderà il viaggio, ma un viaggio di cineviaggi insoliti, cineviaggi che in qualche modo ricordano tempi importanti come Easy Rider di Mary Soper, oppure, che ne so, Fuori di testa, eppure meravigliosi come Cuore selvaggio di David Lynch, viaggi che finiscono sulla luna come I condomini sulla luna o Nei Pianeti sotto intorno, o addirittura, insomma, viaggi che in qualche modo riguardano Georges Méliès, ma riguardano anche viaggi con astronavi come Nel condominio dei cuori infranti, eccetera eccetera. Ci saranno anche viaggi sulla Terra, ma viaggi che non promettono niente di buono, come l'antico vintage bellissimo dei Torre, e poi ci saranno viaggi di altro tipo, più contemporanei, come La Banda. Ci sarà una bellissima rassegna dedicata a Milos Forman, cui avevamo fatto qualcosa già nella piccola fretta di Alphaville durante la primavera, è scomparso da qualche mese, ci dispiace moltissimo. Faremo vedere alcuni dei suoi film che non abbiamo fatto vedere recentemente e nemmeno l'anno scorso per motivi legati al tempo, però ci saranno due chicche veramente importanti: Gli amori di una bionda e Al fuoco con Pierre, che sono due film di Milos Forman che in qualche modo rappresentano l'inizio della sua nouvelle vague cecoslovacca e che noi faremo vedere appunto di sabato, quindi ci sarà da non perdere. Ci sarà una bellissima rassegna dedicata a Romy Schneider, l'attrice austriaca tanto amata dal cinema francese, non soltanto da Alain Delon, con titoli che spaziano da Claude Chabrol a Bertrand Tavernier, a Claude Miller e all'Onsoff Alberto Bevilacqua. Ci sarà una splendida, anche questa, rassegna dedicata ad un'icona della storia del cinema hollywoodiano che tutti noi conosciamo, apprezziamo, amiamo, in particolare molto legata anche all'arte e alla capacità tutta cinematografica di Hitchcock, di Alfred Hitchcock. La rassegna sarà dedicata a James Stewart, che nacque nel 1908, molti titoli, tra cui ovviamente due come dire essenziali nella storia del cinema: Il nodo alla gola di Hitchcock, il primo finto piano sequenza della storia del cinema, e La donna che visse due volte, con la iconica figura di Kim Novak. Ci saranno però poi anche dei martedì interessanti, soprattutto vorrei sottolineare il martedì di teatro. So che Federico ami molto il teatro, perché appunto il teatro in qualche modo è l'origine poi, no, di tutte le cose, di tutte le rappresentazioni che ci affascinano e ci piacciono. È appunto un interprete importante di teatro di prosa, soprattutto in lingua partenopea, in questo caso, che ci presenterà Gian Battista Basile. Quel Gian Battista Basile da cui Matteo Garrone ha tratto Ciro Damiano, ci presenterà proprio due fiabe raccontate da lui stesso, appunto, e tratte dal conto dei conti. Questo avverrà martedì 24 luglio, faremo una grande pubblicità, perché Ciro Damiano è davvero superlativo e Basile è quel che ci avvicina di più al mondo fiabesco dei nostri territori, appunto, italici. Ci saranno anche alcuni film che non sono distribuiti in Italia, e soprattutto noi abbiamo scelto Rumba, è un film molto divertente, molto colorato, che mescola Buñuel e Tati, e io direi addirittura carismati. Ci sarà un film che racconta la vita di martedì, sempre nelle nostre martedì particolari, la vita e le opere dal punto di vista di Jodorowsky, dello stesso Jodorowsky, La danza della realtà, e concludo con una, diciamo, un evento che noi il martedì 10 luglio lanceremo, e spero che abbia tanti aficionados che verranno a, a lavorare con noi, a raccontare con noi. L'evento è Neorè ed è la prima edizione di un festival dedicato al neorealismo passato e presente della storia del cinema universale, nato appunto in Italia, che ha dato vita poi alla Nouvelle Vague e non soltanto, a tutti i cinema che il mondo contiene, che il cinemondo contiene. Ci sarà questo festival che appunto è dedicato, noi lanceremo il 10 luglio il concorso che è unito a questo festival. Partirà il concorso il 10 luglio, daremo tutte le indicazioni, il regolamento, i modi e i tempi per partecipare. Trattasi in breve di raccontare una storia breve entro 5 minuti, un cortometraggio di 5 minuti, compresi titoli di testa, eventualmente titoli di coda, che possano raccontare in qualche modo le nuove vicende del reale. La caratteristica di questo appunto concorso è che si potrà realizzare attraverso smart movie, cioè con l'uso dei cellulari. Tutto sarà più chiaro martedì 10 luglio, noi vi invitiamo tutti e poi magari, che ne so, ne parleremo e magari Federico farà parte della giuria, vediamo un po'. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con l'Alphaville d'estate al Pigneto dal 28 giugno al 16 settembre, e i riferimenti sul sito internet cineclubalphaville.it. Patrizia Salvatori, che ne è curatrice, un ringraziamento e un saluto. Patrizia, a risentirci presto. A risentirci presto, ricordo che il premio che ci sarà per Neorè è un premio in denaro, e questo magari può essere interessante, visti i tempi un po' difficili per tutti i filmmaker. Grazie. A risentirci presto, Patrizia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.